Viva l'Italia! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Luoghi d'Italia di Stefano Brambilla. Buon pomeriggio e benvenuti a Luoghi d'Italia, la nuova trasmissione di Radio 24 dedicata a luoghi, territori, regioni del nostro bel paese rimasti un po' dietro le quinte, quei luoghi un po' poco raccontati, poco noti, che pure di storie da raccontare ne hanno davvero tante. Ecco, noi lo faremo insieme a protagonisti che amano, vivono il loro territorio. Io sono Stefano Brambilla, sono un giornalista del Touring Club Italiano e vi accompagnerò con Luoghi d'Italia per tutta l'estate. La prima puntata di Luoghi d'Italia la vogliamo dedicare a una zona del Trentino meno celebrata delle tante valli di Fiemme, di Fassa, di Brenta. Una zona che Robert Musil, vi ricordate Musil, quello dell'uomo senza qualità, quello dei turbamenti del giovane Turles? Ecco, Musil nel suo racconto Grigia descriveva così. Su in alto il bosco era scuro e la montagna si chiamava Selvot. Al di sopra del bosco, grandi pascoli coperti di neve in larghe dolci ondulazioni accompagnavano oltre, fra i monti vicini, la piccola valle ripida nella quale doveva addentrarsi la spedizione. I montanari che venivano a portar latte e a comprare polenta recavano qualche volta grosse druse di cristalli o di ametiste che in molti crepacci crescono esuberanti come altrove i fiori nei prati, e quelle fiabesche strutture di sconcertante bellezza accrescevano ancora l'impressione che sotto l'apparenza di quel paesaggio stranamente e pur familiarmente ammiccante, come in certe notti il cielo stellato, si nascondesse qualcosa di ardentemente atteso. Quando entrarono a cavallo nella stretta e alle 6 del mattino si lasciarono dietro Sant'Orsola, presso un ponticello di pietra gettato un piccolo rio cespuglioso, spiegarono il canto, se non 100, almeno 2 dozzine di usignoli. Era giorno chiaro. Ecco, la Valle Incantata la chiamava Musil, che nella Valle dei Mochini ci passò parecchi mesi come ufficiale di stanza negli anni della Grande Guerra, non tutti lo sanno. Una valle dunque bellissima, al piedi del selvaggio gruppo dei Lagorai, Dolomiti di quelle vere, ancora integre, dove vi capita di fare una passeggiata d'agosto e di non incontrare praticamente nessuno. Una valle che però non è solo bella, ma è anche un luogo sociologicamente e linguisticamente molto interessante. E il perché ce lo spiega Leo Toller dell'Istituto Culturale Mocheno. Buongiorno. Buongiorno Toller. Buongiorno. Allora, chi sono i Mocheni? Ce lo spiega? Sì, è una comunità che è insediata in alcuni dei paesi della valle, nella sponda sinistra e nella parte alta, e è una comunità che appunto ha come caratteristica soprattutto quella della lingua. È una lingua, parla una lingua di origine bavarese, quindi è una lingua di stampo tedesco, germanico, e che si è mantenuta nel corso dei secoli. L'insediamento di fatti risale al XIII, inizio XIV secolo, e ha mantenuto appunto tante di queste caratteristiche originarie, pur naturalmente avendo anche un'integrazione, uno sviluppo successivo tramite un apporto di dialetto trentino, eccetera. Certo, però ricordiamo che siamo in Trentino, non siamo in Alto Adige, quindi la cosa è piuttosto strana. Ecco, quanti siete, quanti sono i Mocheni oggi? Sì, attualmente, come dicevo, in questa parte della valle costituita dai comuni di Frassilongo, Garait, Fierozzo, Vlarez e Palù del Fers, Napalai e Mersentol, gli abitanti in complesso sono circa 1 migliaio, dai quali purtroppo bisogna dire che negli ultimi decenni almeno un altro 50% è emigrato per necessità di lavoro, eccetera, nel fondo valle, eccetera. Quindi possiamo dire che siamo in totale circa 1500, tra i 1500 e i 2000 persone. Tutti che parlano Mocheno? Ecco, nella nostra comunità possiamo dire che circa il 70% parla quotidianamente il Mocheno all'interno della famiglia, all'interno dei rapporti quotidiani. Quindi bambini e genitori, insomma, parlano insieme in Mocheno oltre che in italiano? Certamente, anche se chiaramente le difficoltà sono proprio quelle di trasmettere alle giovani generazioni tramite l'utilizzo di strumenti anche un po' moderni, di trasmettere anche ai giovani questo senso di appartenenza e soprattutto appunto la lingua mochena. Ecco, ma c'è un orgoglio della comunità, nel senso che anche i ragazzi ne vanno fieri oggi, o si perde un po' come in molte altre piccole popolazioni, piccole minoranze? Ma bisogna dire che negli ultimissimi anni, in questo nuovo secolo, diciamo, vi è stata una certa trasformazione positiva da questo punto di vista, mentre prima si assisteva così a effettivamente un calo sia nell'uso che nell'interesse per la lingua mochena. Negli ultimi anni appunto si sta invece assistendo a una certa rivitalizzazione, anche i giovani che magari non erano così in passato interessati, attualmente se ne stanno interessando molto, stanno partecipando molto anche alle tradizioni, che stanno riscoprendo un po', diciamo così, quello che è anche l'orgoglio della comunità intera, non solo il discorso linguistico, ma anche ad esempio l'aspetto dell'architettura, oppure quindi proprio delle tradizioni dell'ambiente della vostra valle. Brevemente, la lingua da dove viene? Ci diceva una lingua germanica, bavarese? È una lingua di origine bavarese, appunto, come tra l'altro ad esempio il tirolese. Naturalmente ha delle caratteristiche, appunto, come si diceva, proprie, nel senso che ha avuto un'evoluzione sua interna, e attualmente anche i linguisti sono concordi nel dire che si tratta effettivamente di una lingua ormai diversa dal tedesco, e che ha questo status di lingua minoritaria. Tra l'altro invitiamo gli ascoltatori a visitare il sito dell'Istituto Mocheno, www.bernstoll.it, che contiene numerosi esempi e anche un dizionario della lingua mochena. Per chi sa il tedesco poi è interessante andare a vedere quali sono le diversità. Toller ci saluta con una frase in mocheno? Senz'altro, an Sian Gruers in Ola di Leiter zuhören und in Senders gerne lisnen Radio Vierenzunsk und auf einen anderen Fort. Il che significa? Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e un cordiale saluto a una prossima occasione. Grazie Toller, a presto. Prego, grazie a voi. Andando su a Sant'Orsola da Reu mi segua ris, coi bagni terapeutici, almen così te dis, dei boschi che le giasene per chi le vuol binar, che specialmente stittici li fa miracolar. La val dei Mocheni, o Mochental, le ganze meglio de ogni mal. La val dei Mocheni, ya ya dal bon, le ganze meglio de la val de non. La val dei Mocheni. Se lo dicono anche loro sono gli Articolo Trentino, un gruppo folk che i trentini probabilmente conosceranno bene, che imitano, prendono un po' in giro gli Articolo 31. Dalla Valle dei Mocheni scendiamo brevemente poi nella Val Sugana, che vogliamo ricordare almeno per un paio di ragioni: la coltivazione di piccoli frutti, qui si trovano i lamponi più buoni d'Italia, provateli, e la pista ciclabile che dal Trentino porta al Veneto, davvero da provare se avete un weekend e volete portarci la famiglia, è il posto ideale. Tra l'altro in Val Sugana si può anche adottare una mucca, si pagano 60 euro e si ricevono 50 euro in prodotti della mucca dal peggio scelta su un catalogo, andate su valsugana.info per tutti i dettagli, unica condizione: si vada a rendere omaggio alla mucca adottata, anche qui i bambini ne andranno pazzi. C'è però un'altra valle laterale, questa volta sul versante meridionale della Val Sugana, che merita la nostra attenzione, la Val di Sella, una piccolissima valle che non avrebbe molte attrazioni, se non quella di una cattedrale vegetale. La presidente del progetto Arte Sella, Laura Tomaselli, buongiorno Tomaselli, ci spiega che cos'è una cattedrale vegetale. La cattedrale vegetale è una delle opere del percorso Arte Natura di Arte Sella, che appunto si trova in Val di Sella, ed è una sequenza di opere realizzate con materiali naturali, tra cui la più famosa, la più grande e forse la più emblematica per noi è proprio quest'opera dell'artista Giuliano Mauri, che è un vero e proprio omaggio alla natura e all'arte. Come è fatta, come è costituita, per far capire ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta? Io lo so, l'ho vista in foto, l'ho vista anche dal vero, ed è un'opera molto peculiare. sì, riproduce nella pianta una vera e propria cattedrale. In realtà l'idea di Giuliano Mauri era quella di realizzare un vero e proprio omaggio alla natura, custodendo all'interno di colonne in legno costruite da lui dei piccoli alberi che crescendo poi avrebbero costituito la vera e propria cattedrale. Quindi sono 80 colonne, 80 alberi che crescono, e quando le colonne scompariranno rimarranno questi a segnare tre navate, e con le loro chiome legate opportunamente ricorderanno una cattedrale gotica, cioè le guglie, gli archi appuntiti appunto dello stile gotico, delle cattedrali vere e proprie. Questo è proprio il concetto di arte sella, che è un concetto bellissimo e anche unico in Italia, se mi è permesso di dire, nel senso che l'arte entra nella natura e la natura entra nell'arte, cioè le vostre opere sono opere che poi fanno parte del ciclo vitale della natura, scompaiono se vengono abbandonate al degrado e, come dire, si possono vedere nella loro evoluzione. Sì, nella loro evoluzione, in tutte le loro fasi, quindi anche magari nel decadimento, ma questo è proprio il messaggio che il movimento di arte contemporanea al quale noi apparteniamo, il movimento di arte nella natura, vuole così suggerire ai propri visitatori, cioè gli uomini sono abitatori della natura, non sono dei dominatori, quindi alla natura noi pieghiamo la testa e lasciamo che sia lei a concludere il nostro lavoro, anche il lavoro degli artisti stessi, e quindi anche a decidere che un'opera debba terminare la sua vita dopo che ne ha fatto un ciclo. Novità di quest'estate, Presidente, quali nuove opere? Spero molte novità. La più recente, che abbiamo inaugurato qualche settimana fa, è un'opera di un artista inglese, Chris Drury, il primo artista invitato, che ha realizzato un'installazione dentro Malga Costa, che è il nostro spazio espositivo interno, una vecchia stalla che ora ha trovato un altro destino, e una specie di cappella che sta a fianco della cattedrale vegetale, un omaggio al cielo e alle montagne e alle Dolomiti in particolare, realizzato quindi con pietra calcarea, una camera dentro la quale entrare e che fa una funzione di camera oscura, e cioè le immagini delle montagne vengono proiettate nelle pareti interne da un piccolo forellino che si comporta proprio come quello della macchina fotografica, e quindi con una suggestione, con una magia veniamo riportati e immersi di nuovo tra gli alberi, il cielo e le montagne. Ricordiamo che questa è soltanto una delle opere, che sono molti gli appuntamenti in calendario quest'estate, per cui rimandiamo al sito www.artesella.it. Artesella, nelle sue performance, collabora anche con i Suoni delle Dolomiti, che è l'annuale festival estivo di musica in quota sulle montagne trentino, giusto Tomaselli? Sì. Quest'anno ci sarà un direttore, diciamo, artistico, musicale, Mario Brunello, violoncellista, che suonerà e che l'anno scorso mise in scena questa performance a quota 1883. Sentiamola, poi concludiamo. Qualcuno l'avrà riconosciuto, Este Lutis Alpinis, la preghiera corale degli alpini, ecco, pensate, l'ho suonato su un masso in mezzo a un prato circondato dai larici tra le montagne, insomma, andata in Val di Sella ne vale la pena. Ringraziamo Laura Tomaselli, a voi auguriamo buona giornata e alla prossima puntata.